Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio Verucca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Se il quadro sarà all'altezza di questa cornice, se il derby sarà all'altezza di questo pomeriggio domenicale all'ultimo respiro, sarà meglio tenere le cinture allacciate. Partite che si decidono nel finale. Tutte le gare aperte fino all'ultimo respiro, appunto. Il Milan che perde 2-1 a Genova con la Sampdoria, con gol di Pazzini al 47esimo della ripresa. Il Palermo che acciuffa il 2-2 a Cagliari al 50esimo, ultimo minuto di recupero concesso. L'Atalanta che batte 2-1 la Fiorentina e aggiunge Pepe al derby dell'Olimpico. Il Napoli vince 2-1 a Bari. 2-2 tra Catania e Siena, 3-2 incredibile del Genoa a Parma e quindi 1-1 tra Udinese e Bologna con gol di Di Natale al 91esimo. Sta già parlando Gigi Del Neri con Sky. La palla è importantissima, per cui noi siamo una squadra vera, giusta, con dei campioni aggiunti e quelli che devono far cambiare marcia alla squadra. Grazie a Del Neri, andiamo a Parma. C'è Roberto. Questo era un'ultima battuta di Del Neri. Adesso sentiremo invece Gasperini da Parma dopo la vittoria 3-2 del suo Genoa, 2-0 il vantaggio genoano, poi la rimonta del Parma con un'autorete di Bocchetti e l'espulsione di Guidolin. Poi vedremo di far luce anche su questo particolare dell'espulsione di Guidolin, perché l'autorete di Bocchetti è stato segnato con lanzafame, giocatore del Parma a terra. Non so chi abbia protestato, non so perché Guidolin è stato espulso, ma ce lo racconterà poi lui ai microfoni. Intanto Gasperini. Globalmente abbiamo fatto sicuramente un'ottima prova. Tutti i gol che non avevate fatto li avete fatti oggi. Io le chiedo... Ne abbiamo lasciati anche oggi. Li avete lasciati. C'è un po' di rimpianto per quel periodo che lei ha definito nero, perché potevate lottare per un'altra coppa in questo momento? No, beh, è successo... Sono quelle annate che non sono molto fortunate, così come episodi, e quindi ci hanno tolto... Abbiamo perso l'opportunità nel momento decisivo del campionato, dove potevamo agganciarci a fare un lungo importante, però la squadra non ha... Anche dopo il derby, a dimostrazione che aveva giocato un ottimo derby, e anche a mio parere meglio della Samp, ha perso, però una squadra che in salute ha dimostrato oggi, reagendo subito e vincendo questa partita. Adesso continueremo così in queste ultime, cercando di fare il massimo. Studio. Grazie. Questo Gasperini, io rimango sempre della mia idea, è un Genoa che prende 55 gol, che subisce 55 gol, non può essere da corsa. Allora, la giornata di oggi fin qui cosa ha detto? Ha detto che la Sampdoria è quarta in classifica da sola, 57 punti. Ha detto che il Milan anche formalmente abbandona il treno dello scudetto, sostanzialmente si era già capito. Lo fa dopo aver giocato una splendida gara, secondo me, a Marassi. Dopo essere passato in vantaggio dopo 20 minuti con un colpo di testa di Borriello, quota 14 gol segnati per lui, dopo aver subito la Sampdoria nel finale di primo tempo, dopo aver subito un rigore nettissimo con conseguente espulsione di Bonera, minuto 8 della ripresa, fallo netto su Cassano, rigore d'espulsione appunto per il difensore centrale di Leonardo, e poi parleremo anche di Leonardo perché credo che queste siano le ultime partite sulla panchina del Milan per l'allenatore brasiliano. Il rigore trasformato da Cassano, quinto gol in 6 partite per lui, appunto all'ottavo, ma quello è l'episodio che cambia la gara. Nonostante l'inferiorità numerica, il Milan riesce a costruire tante palle gol giocando, ripeto, con grande personalità. Anche se si denunciano pure oggi le carenze di organico di questa squadra e anche forse un po' di mancanza di coraggio di Leonardo, perché sull'espulsione di Bonera Leonardo inserisce Oddo con il compito di giocare difensore centrale, pensate un po', Massimo Oddo, anche perché Ambrosini era già stato sostituito ed era lui il difensore centrale di emergenza viste le tante assenze del Milan in quel ruolo in questo momento. In panchina c'era un giovane anche molto promettente, di cui si parla benissimo e che già alcune cose molto importanti ha fatto a livello giovanile, si chiama Albertazzi, però Leonardo non se la sente di rischiarlo e gioca con questa retroguardia improvvisata, paga al 47esimo su un cross da destra di Mannini e Pazzini che di testa brucia proprio Oddo, che appunto di mestiere fa un'altra cosa, e non lo stopper, ed è il gol del 2-1 per la Sampdoria. Quindi questa giornata dice che la Sampdoria è ora quarta in classifica da sola, perché il Palermo ha rischiato anche la sconfitta, e anzi parlerei di suicidio cagliaritano dopo l'allontanamento di Allegri, perché il Cagliari vinceva 2-0 al 42esimo del secondo tempo, minuto del gol del raddoppio di Jeda, Kossu con un destro al volo al 28esimo del primo tempo, la partita sembrava in ghiaccio, una classifica che sembrava molto diversa per il Palermo, invece Miccoli al 43esimo e Hernandez al 50esimo raddrizzano la barca dei siciliani che riceveranno proprio il Milan domenica prossima. La giornata di oggi, sempre fin qui, ha detto che la Juventus a questo punto è praticamente fuori dai giochi, perché sono 6 punti di distacco dalla Sampdoria, che è ora quarta, fuori dai giochi in prospettiva Champions League, a meno di cose clamorose. Anche il Napoli, che pure ha vinto 2-1 sul campo di un Bari che in questo momento insomma regala emozioni ovviamente agli avversari per demotivazione eccetera, doppietta di Lavezzi, poi gol nel finale di Almiron che però non cambia il senso del discorso. Sempre a domenica di oggi ha detto e sta dicendo che in coda la battaglia è serrata, perché l'Atalanta c'entra la 5ª vittoria consecutiva in casa, se non abbiamo sbagliato i conti, gol di Ferreira Pinto al 6º, raddoppio bellissimo di Tiribocchi al 24esimo della ripresa con una girata di quelle che proviamo al campetto da bambini, insomma su un cross da destra di Cappelli, magnifica la coordinazione di Tiribocchi che tra l'altro poco prima aveva colpito un palo. Magnifico anche il gol che sembra riaprire la partita al 30esimo su un cross da sinistra di Carrison, il destro al volo dal limite dell'area di Montolivo, ex di turno, ma finisce 2-1 per l'Atalanta. E la Lazio a questo punto il derby insomma se lo deve giocare fino in fondo, anche per la sua classifica, perché laggiù è tutt'altro che definita la situazione. Andando avanti nello spulciare i tabellini prima del traffico, Catania-Siena 2-2, gol di Maxi Lopez al 10º, quindi il pareggio al 4º della ripresa di Maccarone, di nuovo Catania in vantaggio con Biagianti al 5º della ripresa, al 14esimo Curci para un rigore al catanese Maxi Lopez e al 25esimo Vergassola pareggia per un Siena che tutto sommato non si vuole arrendere, con grande merito della squadra toscana e di Malesani che la guida. 3-2 del Genoa a Parma, come si diceva, gol di Palacio al 33esimo del primo tempo, Palacio raddoppia anche al 6º della ripresa, ma sul 2-0 c'è la rimonta emiliana con il gol di Zaccardo di testa al 15esimo, l'autorete incredibile di Bocchetti, piatto destro nella sua porta vuota al 17esimo e al 28esimo segna Fatic, primo gol in Serie A per lui, sinistro sotto la traversa ma pescato da Sculli in posizione irregolare. Udinese-Bologna finisce 1-1, il Bologna aveva in mano il colpaccio dopo tante sconfitte consecutive, dopo 3 minuti soltanto autorete di Zapata su colpo di testa di Di Vaio, ma al 91esimo Di Natale pareggia il conto ed è 1-1 tra Udinese e Bologna, ripeto, battaglia per la salvezza che rimane apertissima e la Lazio lo sa molto bene a 1 ora e un quarto dal derby della capitale. Traffico. Strade in diretta. Aerei fermi fino alle 8 di domani in tutti gli aeroporti del nord Italia dopo l'eruzione del vulcano islandese, ripercussioni su tutti gli scali italiani, centinaia i voli cancellati. Disagi anche nel trasporto ferroviario, con lunghe code alle biglietterie nelle principali stazioni. Trenitalia ha predisposto un treno speciale per stasera tra le 23:30 e mezzanotte in partenza dalla stazione di Milano Centrale per Parigi. In Europa hanno riaperto tutti gli aeroporti della Spagna e della Francia meridionale. 6 aeroporti tedeschi sono stati autorizzati a riaprire temporaneamente. Per quanto riguarda il traffico, per lavori ci sono code sulla A14 Adriatica verso Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per un altro cantiere, rallentamenti sull'Autosole tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Ascoltavo Strade in diretta e pensavo al Barcellona che è in viaggio verso Milano in pullman, perché il vulcano islandese non so se fa il tifo per l'Inter, ma certamente non fa sconti a nessuno, in un ultimo sussulto di democrazia non vola nessuno, neanche i presidenti, neanche i miliardari, tutti a terra, e Barcellona, i marziani del Barcellona che arrivano a Milano non con l'astronave ma con il pullman, come una gita scolastica, facendo tappa, sono in viaggio ora, facendo tappa questa notte a Cannes. Dunque ragazzi, prima tappa a Cannes, si va a mangiare il gelato sulla Croisette, poi domani si riprende il pullman e si arriva a Milano dopo un derby molto duro giocato dal Barcellona ieri con l'Espagnol, finito 0-0. Mi viene in mente anche un altro pensiero in questo momento, sia l'Inter che il Barcellona che il Bayern di Monaco impegnati sia in Champions che in campionato con distacchi ridottissimi da chi le da chi le insegue al momento stiano giocando una specie di mondiale o di europeo o di playoff, gare dentro o fuori ogni tre giorni. Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera. Mi intimano di ricordare il numero di telefono, lo faccio volentieri per tutti i nostri ascoltatori. Oggi temi in discussione ce n'è un'infinità. 800240024 è il numero verde. Messaggi 349-238-6666. Massimo, dicevo in apertura che se il quadro del derby sarà all'altezza di questa domenica pomeriggio, teniamo le cinture allacciate, perché partita all'ultimo respiro con dentro un sacco di cose, per la verità. No, è verissimo, ed è verissimo quello che sostenevi qualche istante fa, ovvero che la vittoria dell'Atalanta e gli altri risultati non lasciano la Lazio così sicura come poteva esserlo ieri e alla vigilia di questa domenica, che il pareggio sia sufficiente per gioire, nel senso che il pareggio permetterebbe di ottenere l'obiettivo di bloccare la Roma riportando l'Inter al comando da sola, ma la Lazio rimarrebbe lì in una zona molto pericolosa, anche se poi c'è lo scontro diretto tra Bologna e Atalanta, e sì. Però anche la Lazio domenica va a Marassi contro il Genoa, poi deve ricevere l'Inter, e quindi perlomeno non è così sicuro che l'operazione scudetto dei nerazzurri con l'aiuto della Lazio si possa completare, certo, come sognano i tifosi, dando anche una mano poi all'Inter quando arriverà l'Olimpico. Sentiamo insieme una battuta di Prandelli, Sky. Però la voglia di arrivare comunque a una posizione di classifica alta c'è. Oggi siamo stati sicuramente poco aggressivi, e quando la squadra è poco aggressiva concede troppo, anche se abbiamo avuto le nostre occasioni. Ci spiega il perché della scelta di questa formazione iniziale, con Jovetic fuori e Santana a fare il centrocampista, poi ovviamente con Marchionni e Vargas esterni, l'unica punta Girardini? Perché Jovetic è fortunato. Però Jovetic si è riscaldato nel secondo tra il primo e il secondo tempo. Ma non è entrato. Questo è Prandelli, Jovetic reduce l'infortunio, non è entrato. Fiorentina deludente oggi a Bergamo, anche se l'Atalanta di salvarsi è ancora una gran voglia, ci crede soprattutto moltissimo. Massimo Callegari citava la classifica, che sul fondo, letta al contrario, è questa: Livorno 26, che mi sembra l'unica ormai andata. Il Siena lo è nei numeri, ma non nello spirito, perché oggi è riuscito a rimontare un Catania che invece sta girando fortissimo. Siena 30 punti, Atalanta 34, quindi sopra ci sono Bologna 36, Lazio 37, Udinese 39. E leggendo questa classifica, insomma, è chiaro che, Massimo, come dicevi, il derby di Roma non può che accendersi ulteriormente, anche perché il prossimo turno dice che l'Atalanta andrà a Milano con l'Inter, è vero, ma c'è Bologna-Parma. La Lazio va sul campo del Genoa, poi sempre per quanto riguarda il fondo della classifica c'è Udinese-Siena, che è un altro confronto diretto. Dunque Lazio che deve pensarci ancora a questa classifica. Sì, deve pensarci. Come poi, per quello che ha detto Ranieri, che ha detto una cosa molto corretta dal mio punto di vista di non romano, se questa è una partita che la Roma deve giocare senza sentimenti per ottenere evidentemente un profitto dal suo atteggiamento, vale anche per la Lazio, nel senso che questa partita, come lo è stato anche Inter-Juventus soprattutto nel primo tempo, è fortemente condizionata da tutto quello di non calcistico, di non di campo, sì, che c'è. Però entrambe le squadre, se riescono a concentrarsi sugli aspetti tecnici, tattici, sulla condizione psicofisica che in questo momento è decisiva, probabilmente per entrambi ci può essere un vantaggio, perché la Lazio è in un periodo in cui sta giocando discretamente e meglio rispetto a prima, e la Roma comunque è molto carica e ha anche delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà, sì, la Lazio, che ha una delle migliori difese del campionato. Sì, io sono il resto dell'idea che quella che inizia tra un'ora e sette minuti sia la partita cruciale nella stagione della Roma, che non ho visto benissimo nelle ultime due uscite a Bari, sul campo di una squadra che, come dicevo prima, in questo momento della stagione sta regalando emozioni agli avversari, e non ho visto benissimo nemmeno in casa contro l'Atalanta. Una battuta di Mazzarri invece, allenatore del Napoli, Napoli che può pensare a questo punto all'Europa League con la Juventus, perché Napoli 52, Juventus 51. Mazzarri. Sì, è vero, oggi dopo essere andati in vantaggio, cosa che abbiamo dilapidato con la Fiorentina e col Parma, siamo stati più concreti, più squadra, e si è fatto veramente una buona gara. E niente, questa squadra gioca più o meno sempre in un certo modo, a volte per leggerezza e inesperienza getta il vento dei risultati che sarebbero acquisiti. Massimo, come hai visto l'Inter con la Juventus? Ma al 50%, non so se per scelta, per consapevolezza, per condizionamento psicologico per tutta la settimana che c'era o per la settimana che sta per arrivare. Se questa è una domanda che presuppone una condizione, una valutazione della condizione dell'Inter in vista del Barcellona, l'esperienza di quest'anno e anche dell'anno scorso dell'Inter di Mourinho ci insegna che non è un parametro valido, nel senso che l'anno scorso l'Inter prima e dopo la Champions faceva sempre benissimo, sì. E poi l'anno scorso in Champions ha fatto molto male. Quest'anno l'Inter ha perso 4 volte prima della Champions League e ha ottenuto risultati migliori rispetto alla scorsa stagione, quindi l'Inter ha una condizione media, psicofisica, meglio, fisico-atletica, migliore della Roma, però al momento non ha mostrato contro la Juve perlomeno i picchi che saranno necessari contro il Barcellona. Questo non vuol dire che non siano nelle gambe degli uomini di Mourinho le energie per giocare contro il Barcellona, che va affrontato sicuramente con un ritmo molto alto e con grande pressing. Serve una partita della vita, servono due partite della vita nel giro di una settimana. Degli Rossi con Sky. Magari alla fine, perché pur non giocando magari la migliore delle nostre partite, la squadra ci ha sempre creduto. A Mazzarri fa più paura, insomma, diciamo che è più preoccupato dal fatto di avere avanti il Palermo, la Sampdoria, tutte e due uguali. Quale sembra la squadra più attrezzata, insomma? No, sono due belle squadre, stanno giocando bene, sono tutte e due altrettanto valide. È chiaro che ha più punti, man mano che si va verso la fine del campionato è avvantaggiato. Ma noi intanto non facciamo la corsa su nessuno, come ho sempre detto, e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Non ci scordiamo la situazione in cui siamo arrivati a un certo punto della stagione. Massimo, la Juventus è fuori da questa corsa, vero? Sì, per la Champions a questo punto sì. Per la Champions a questo punto sì, ha 6 punti, è vero che è in vantaggio negli scontri diretti sulla Sampdoria, quindi può arrivare alla pari, ma il discorso è che la Juventus dovrebbe fare 12 punti nelle prossime 4 partite, quando in questa stagione ha infilato una serie del genere solo nelle prime 4 partite, peraltro con delle prestazioni individuali, soprattutto di Buffon, di altissimo livello. Poi non c'è più riuscita, c'è grande discontinuità. Anche l'allenatore è fortemente in confusione, nel senso che oltre a quello che non ha fatto fin qui ci si dovrà anche interrogare su quello che Zaccheroni lascerà minimamente a chi utilizzabile seguirà, perché comunque al momento non c'è nulla che lui abbia lasciato a chi verrà dopo di lui. Leonardo va via? Noi come redazione l'abbiamo scritto, no? Pensiamo di sì, questo è quello che e io lo penso altrettanto, anche perché ne parlavo ieri, insomma, mi pare che la fonte che ha dato questa notizia sia una prova. Insomma. Vabbè, questo diciamo io lo intendo chiaramente per l'attendibilità, però della fonte, però insomma sì. Ci sono state poi anche delle conferme indirette che sono arrivate successivamente, al di là della smentita, che peraltro, pur essendo arrivata dal sito della società, è stata attribuita a Leonardo, e anche questo è un particolare che però ha un significato, nel senso che anche nel comunicato ufficiale del Milan sul sito c'era scritto Leonardo smentisce che, ma non c'era una presa di posizione di chiusura totale rispetto alla scena che è stato ipotizzato. Bisognerà capire a questo punto, anche oltre a quello che farà Leonardo, cosa farà il Milan e quali saranno le prospettive di questa squadra. È vero che Antassotti ha fatto moltissimo quest'anno all'ombra di Leonardo e anche in maniera più lampante rispetto al ruolo di assistente semplice che ha. Bisogna capire se è pronto, come molti sostengono, anche per gestire autonomamente con Lippi direttore generale, tu credi? Come si è scritto? No, non credo. Nel senso che non lo so, non ho niente in mano per dire sì o no, però del Milan è difficile pensare che ci sia posto per una figura del genere, anche molto ingombrante, e ultimamente anche bisogna capire quanto credibile se le indicazioni che aveva dato la Juve quest'anno ci dimostrano che lui non è stato particolarmente utile da questo punto di vista e in questo ruolo, no? Sì, ammesso e non concesso che Lippi appunto abbia lavorato un po' per la Juventus in questa stagione. Chiaro che comunque, magari si può parlare anche di Allegri, chiaro comunque che il prossimo allenatore del Milan sarà un allenatore senza troppe pretese, no? Sì. Senza troppe pretese come organico a disposizione, cioè non arriverà un allenatore alla Benitez, alla Lippi, di quelli che dicono ok, io vengo però voglio la squadra per provare a vincere tutto. Ma neanche gli ultimi lo sono stati, No, certo, chiaro. No, neanche chiaro. Il Celotto è stato negli ultimi anni. E probabilmente dalla prospettiva dei tifosi, una squadra con qualche giovane che arriva dalla primavera e magari pescato anche da altre realtà, un allenatore come Allegri che ha dato delle dimostrazioni importanti dal punto di vista dell'esuberanza e della vivacità del suo gioco, sarebbe gradito, se questo dà poi l'idea che ci sia un programma più futuribile rispetto, certo, agli ultimi anni. Grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Buon derby a Massimo Callegari. Dunque adesso ci fermiamo un attimo, poi Marco da Caserta, Maurizio dalla provincia di Messina sono i primi due ascoltatori che interverranno oggi. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Ho fatto un po' di melina perché volevo sentire parlare Leonardo, che avevo visto pronto ai microfoni di Sky, ma evidentemente non è ancora il suo turno, dunque ci fermiamo. Radio 24 si è data all'iPhone. Scarica gratuitamente l'applicazione dall'Apple Store di iTunes per il tuo iPhone, iPod Touch o iPad. E Radio 24 sarà sempre con te. Stress da digitale terrestre? Ansia da notebook, reflex o smartphone? Esperta, quello che fa per te! Roba da non crederci! Ma assolutamente sì! Con l'incredibile promozione Prezzi Shock! Trovi proprio l'impossibile! Come il climatizzatore fisso LG in classe A con pompa di calore, ideale per un ambiente fino a 46 metri quadri. A soli 299 euro! Expert! Gli esperti siamo noi! Vedi regolamento nei punti vendita aderenti. Prezzi Shock! Da sballo! Tesoro, sei pronto? Fai, dormi. Scusami, sono distrutto. Prova con la ricarica gialla. Ricarica gialla? Certo, l'omeopatia del dottor Reckeweg si riconosce dalla chiave gialla. Omeopatia? Bella idea. Sì, omeopatia del dottor Reckeweg. Chiedila in farmacia. Non mi sposi più. Ma, Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia con il servizio rapporto classificato ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Da Aaron Hector Schmitz a Italo Svevo, da Henri Marie Bale a Stendhal, chiamiamo l'evoluzione con il suo nome. Dynamiting diventa Repower, energia e gas naturale per la tua attività. Nuovo nome, stessa consulenza dedicata. Repower, l'energia che ti serve. La sua voce ti manda in estasi, la sua grinta ti fa perdere la testa. Se la tua passione per l'auto è sfrenata, leggi Automobilismo. Automobilismo. Le automobili messe a nudo. Ogni mese in edicola. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Prevalenza di bel tempo al centro-nord con alcuni annuvolamenti e isolati rovesci pomeridiani su Prealpi Lombarde, Trentino Alto Adige e Appennino Centrale. Residuo maltempo al sud, anche se in attenuazione, con qualche rovescio più insistente nelle aree interne, in Calabria e nel Salento. Temperature massime in aumento al nord con punte di 20-22 gradi, in lieve calo al sud, eccetto sul Basso Ionio, per effetto di venti freschi e moderati di maestrale. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e per il meteo tutto. Voglio raccontarvi una storia a lieto inizio. Una storia fatta di legno, cotone, pelle, perché la qualità è una pagina che Flus scrive ogni giorno. Come Contadao, letto matrimoniale con doghe in legno nella nuova finitura con superficie strutturata a caldo resistente ai graffi. Tuo a 1500 euro. Disponibile anche nelle finiture ciliegio, tinto Vengué, laccato bianco lucido o opaco. Vieni a trovarci o vai su flu.it. Sono l'amministratore delegato... No, troppo formale. La nostra azienda ha sede al MAC 567. Ecco. Work as you are. Mac 567. Il complesso di uffici disponibili a Milano in zona Maciachini. Info su mac567.com. L'uomo raggiunse il retro del locale. I due assistenti erano già lì ad aspettarlo con aria truce. Ce la pagheranno. La nuova stampante. Non aver paura di cambiare stampante. Risparmia scegliendo HP OfficeJet Pro fino a 75 euro di rimborso. Dettagli ai partner aderenti all'iniziativa sul sito radio.hp.com. A tutte le unità, mantenete del blocco! Fateci entrare! Fino al 30 maggio da Avanzi ogni diottria vale il 10% di sconto sulle montature delle migliori marche! Allora dentro in ruzione! Numero verde 800 28 25 25. Avanzi, vedi che ti conviene. E questo è il nostro impianto di illuminazione. Utilità festeggia 10 anni al servizio delle imprese per la fornitura di elettricità e gas. Chiedi un preventivo gratuito su utilita.com. Insieme troveremo la soluzione ideale per la tua azienda. Ecco un'altra pagina di qualità. Acquistando un letto completo di materasso e biancheria, avrai un piumino 4 stagioni compreso nel prezzo. Fino al 31 luglio. Vai su flu.it. Tempo di sport. Leonardo. La mia realtà di oggi, la mia realtà di oggi è affrontare 4 settimane, 4 partite e sicuramente finire al meglio una stagione che abbiamo avuto sinceramente tanti momenti belli, tanti momenti di difficoltà, e la cosa più giusta con noi stessi è chiudere questa stagione in un modo in cui abbiamo vissuto sempre, con grande, diciamo, grande impegno e sempre cercando un bel gioco. Fabio. Mario Sconcerti. Leonardo, ti devo fare una domanda. Ciao Mario. Dura. Perché tu parlavi della scorsa stagione. No, non essere duro come... No, perché infatti, deve essere infatti duro? Mi dispiace perché un po' d'amore, un po' d'affetto. Però tu parlavi giustamente della scorsa stagione. Ora io mi dico, perché? Quali sono le ragioni, i buoni motivi che dovrebbero rendere buona questa stagione del Milan? Dal momento che il Milan ha fatto 6 punti meno dello scorso anno, è allo stesso tipo di distacco dall'Inter, ha subito 9 gol in più e ne ha fatti, ha subito 6 gol in più e ne ha fatti 9 in meno. Non c'è un motivo per essere più soddisfatti di un anno fa, almeno che non me lo trovi tu. No, io sinceramente credo che sia molto chiaro. Io apprezzo anche, diciamo, queste statistiche, perché tante volte aiutano anche a trovare delle soluzioni, a cercare anche di trasformare questi numeri in gioco, in produrre un qualcosa che possa cambiare questi numeri, che tante volte credo che vanno molto, diciamo, in quello che è la realtà. Tante volte credo di no. Io credo che la cosa di essere felice oggi sono tante. Io credo che tanti giocatori quest'anno erano in situazione che forse non ce l'aspettavamo nessuno. Posso citare tanti esempi, tanti singoli, no? Da Nesta, da Abate, da Antonini, da Dida, da Biate, da Gattuso stesso, che oggi ha fatto una grande partita, che ha avuto una stagione molto travagliata fra infortuni, incertezze. Seedorf, che ha fatto una grande stagione. Ambrosini, che come capitano il primo anno ha fatto una grandissima stagione. Credo che questo l'elenco di Leonardo che abbiamo sentito vanno interpretate un po' come dichiarazioni di un lungo addio di Leonardo. Leonardo, anche perché non avete sentito la domanda che è stata posta a Leo da Alessandro Alciato, che di allenatori che partono se ne intende, perché l'anno scorso è andato avanti tutto l'anno con Carlo Ancelotti. Beh, la domanda è stata questa. Galliani ci ha detto che sta provando a convincerti a restare perché tu vuoi tornare in Brasile, i tuoi figli sono là, eccetera, eccetera, eccetera. Leonardo ha detto di questo non voglio parlare, ha liquidato in un attimo la questione, motivi personali, però insomma mi sembra a questo punto evidente il quadro della situazione. Tra i motivi si può citare il fatto che, di soddisfazione, si può citare il fatto ad esempio che Kakà quest'anno non c'è, come i tifosi del Milan sanno bene. Io continuo a pensare che questo Milan non sia mai stato competitivo, al di là delle parole della proprietà, per le vittorie in Italia ed in Europa. Non lo sia mai stato. È chiaro che il campionato in questa stagione va letto, secondo me, non solo come i numeri, con i gol fatti, subiti, con un distacco che è lo stesso, con i punti in più e in meno, vado a letto nello spirito, che dice che il Milan ha avuto concrete possibilità di superare l'Inter, poi non le ha sfruttate, è rimasto comunque fino ad oggi, a 4 giornate dalla conclusione, in corsa almeno formalmente per lo scudetto. L'anno scorso non è stato così, mi pare. Marco Caserta, Maurizio, provincia di Messina. Marco, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Niente, volevo parlare appunto di Leonardo e del Milan. Sì. Praticamente Leonardo, secondo me, ha sbagliato una sola cosa: fare un contratto biennale. Perché lui, secondo me, poi se le varie cose, le varie motivazioni, non lo so se sono scuse o sono realmente, però lui vorrebbe garanzie, perché penso a rimanere sulla panchina del Milan con la stessa rosa più o meno, con la stessa filosofia, mentalità più o meno che si ha in questi ultimi anni. Certo. Lui dice, non, giustamente, secondo me, dice, io ho salvato un anno, secondo non me la sento di stare sempre qui a vivacchiare, diciamo. Sì, e poi, poi sappiamo bene quali siano i rapporti tra l'allenatore del Milan e la proprietà, no? Quindi non è, non è una panchina facilissima quella, anche dal punto di vista mediatico. Parla di Calli, Tassotti, cioè di una soluzione interna che abbracci il progetto, diciamo, sì, un progetto sì, che sì. Però a questo punto, cioè, mi sembra molto campato in aria, perché si cerca magari anche di non è chiarissimo. Sì, però nel senso che si spende poco, si cerca di investire sui giovani. Abbiamo investito su giovani come Antonini e Abate, ma, Marco, ma investire sui giovani non è questo. Antonini e Abate erano in casa. Non si investe sui giovani. Un progetto che questa società non ha mai fatto. Questa società, anche i dirigenti, sono sempre stati abituati a spendere un tot di soldi, fare grandi squadre, ma con grandi investimenti. Sì, l'ultimo grande investimento che il Milan ha fatto è stato quello per Pato. Quello è investire sui giovani. Sì. Da lì in poi è chiaro che il Milan, perché sennò molti dicono: ah, ma l'anno prossimo Milan prende Balotelli, perché per mille motivi. Non ci credo nemmeno se lo vedo, perché prendere Balotelli vorrebbe dire, ammesso e non concesso, che poi l'Inter possa cedere Balotelli al Milan, ma qui stiamo parlando di fantacalcio, fantascienza, fanta quello che volete, però significherebbe un'inversione di tendenza nella conduzione del Milan, di cui non si ravvisano le intenzioni, ecco, quindi lo escluderei a priori. Il Milan semplicemente l'anno prossimo sarà una versione riveduta e corretta di questo, corretta non so quanto, magari al ribasso, perché non sono così convinto che Pato rimarrà in rosso-nero. Non c'è niente di misterioso, la politica è questa. Maurizio, provincia di Messina. Buonasera. Chiamo da Milazzo, provincia di Messina. Anch'io sono tifoso del Milan, però prima di tutto vorrei vedere che il giorno 23 aprile ci sarà l'assemblea dei soci del Milan. Quindi magari là vedremo se il Milan vorrà essere competitivo oppure farà una programmazione a rilento solo con i giovani. Sì. Però io penso che c'è anche la sponsorizzazione anche del sport, anche dello sceicco, quindi non lo so se poi magari a lungo andare Berlusconi passerà la mano e quindi poi comincerà un altro tipo di mercato. Questo è impossibile saperlo, le smentite sono sempre state molto precise e puntuali, no? Però è evidente che rimanendo questa proprietà il futuro del Milan sarà quello che immaginiamo, no? Quello che lei sta delineando, l'assemblea dei soci, insomma, lasciamo stare, cioè il socio che conta è uno e sa benissimo chi è, quindi la politica del Milan sarà quella di queste ultime stagioni, non ci sarà un'inversione di tendenza, io credo, non c'è nessun segnale, altrimenti Leonardo sarebbe rimasto, non ci sarebbe neanche stata questa discussione. È chiaro che altre idee, altri programmi, altre ambizioni, non so se come CT del Brasile, come organizzatore dei prossimi mondiali, non lo so quale sarà il suo ruolo in Brasile adesso, però è evidente che non sarà più l'allenatore del Milan, questo è chiaro. Nando da Chieti, poi traffico. Nando, dica. Buonasera, complimenti per il programma. Grazie. Io sono un interista di vecchia data, sì. Diciamo che la seguo dalla prima vittoria in Coppa dei Campioni, dal 64. Allora ero un ragazzino, quindi sono stato affascinato da quella partita. Adesso metto in paragone, ancora una volta, una squadra spagnola che davanti alla nostra strada per raggiungere un grande obiettivo che è la Champions League. La buttiamo sulla cabala, lei dice. Anche allora il pronostico era nettamente a favore al grande Real. Sì, sì. Guarda, serve per, io, guarda, Nando, per eliminare questo Barça io credo serva la cabala, serva il vulcano, serva qualunque cosa, certo, serva certo, il viaggio in culo, perché tutta franchezza, non, in questo particolare momento della stagione non, non lo vedo battibile il Barcellona. Servirebbero due partite perfette, servirebbe qualcosa che non funziona, non so se il viaggio in pullman o un raffreddore di qualcuno, il grande Sandro Mazzola. In questo personaggio vedrei bene, non so adesso se Mourinho avrà il coraggio di farlo, Super Mario Balotelli, in molti. Io credo che Mourinho ci stia anche pensando, anche perché Pandev è uno dei meno brillanti. Mi preoccupa molto invece in chiave Inter il fatto che tra i meno brillanti, nella classifica i meno brillanti, ci sia Snyder, che è il vero trasformatore di energia dell'Inter, quello che aumenta il voltaggio tra centrocampo e attacco, il giocatore imprescindibile che nelle ultime domeniche, nelle ultime partite ho visto parecchio sottotono, anche perché non sta benissimo, dunque credo che possa diventare un problema la condizione precaria di Snyder alla vigilia della partita con il Barça. Torniamo a parlarne tra un attimo. 800 24 00 24, numero verde traffico. Strade in diretta. Fino alle 8 di domani in tutti gli aeroporti del nord Italia aerei fermi per l'eruzione del vulcano islandese, ripercussioni su tutti gli scali d'Italia, centinaia i voli cancellati, disagi nel trasporto ferroviario, lunghe code nelle principali stazioni. Trenitalia ha predisposto un treno speciale stasera intorno a mezzanotte con partenza dalla stazione di Milano Centrale per Parigi. In Europa hanno riaperto tutti gli aeroporti della Spagna e della Francia meridionale, 6 aeroporti tedeschi hanno temporaneamente riaperto e da domani alle 6 potrà riprendere l'attività anche negli scali austriaci. Per quanto riguarda il traffico, rallentamenti per lavori sulla A14 Adriatica verso Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per un altro cantiere, rallentamenti sull'Autosole tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Il nostro numero verde per le vostre segnalazioni 800 08 3622, strade in diretta, torna tra mezz'ora. A tempo di sport. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, per commentare i risultati di oggi, per parlare di Inter Barcellona, Barcellona Inter, del viaggio in pullman del Barça, per la Formula 1 più tardi, perché parleremo anche di quello, per aspettare insieme il derby, per fare pronostici sul derby, per tutto quello che volete. Siamo qui, intanto saluto e ringrazio Andrea Schianchi, mio amico inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi nella tua Parma, esatto. per questo Genoa che vince 3-2 con gli emiliani. Sì. Io vorrei che Andrea mi spieghi perché Guidolin ha dato fuori ed è stato espulso, perché non l'ho capito. Perché è stato Dainelli a provocarlo. Dainelli lo ha provocato dopo il gol del pareggio, sì, del provvisorio pareggio del Parma, e lui ha risposto. Tra l'altro, così dicono, io ovviamente non ho sentito, dicono che non sia stata una risposta grave o insomma da espulsione, però l'arbitro così ha deciso, ma penso che tutto sia nato da lì, insomma, sia nato da una provocazione del giocatore del Genoa. Resta il fatto che comunque alle provocazioni non si deve rispondere. Sì, non c'è dubbio. Comunque Andrea, volevo parlare, visto che l'ambiente del Milan lo conosci alla perfezione, beh, mi sembra che oggi sia consumato, non so se hai sentito le interviste, l'addio di fatto di Leonardo al Milan, non c'è niente di nuovo da scoprire, no? Va via. Secondo me va via Leonardo, l'ho scritto anche in settimana, i motivi sono abbastanza chiari, cioè sono dei motivi legati ai mancati investimenti che anche quest'anno non ci saranno, perché la famiglia Berlusconi anche quest'anno non tirerà fuori un euro per la prossima campagna acquisti, ma si limiterà a ripianare il rosso che verrà certificato nell'assemblea del 23 aprile, quindi di venerdì prossimo. A fronte di mancati investimenti è chiaro che Leonardo non rimane, perché se deve rimanere per poi sentirsi tra virgolette certo. insultare o comunque certo. criticare durante la stagione, insomma, obiettivamente non ne vedo il motivo, francamente. È chiaro, quindi se andrà con Filippo Galli, con Tassotti o con magari Max Allegri, comunque con un allenatore che non abbia grandi pretese di organico. Io sì, mi aspetto sempre che Berlusconi possa tirare fuori qualche cosa dal cilindro e magari possa fare un colpo anche per quanto riguarda l'allenatore, ma francamente dico che se non hanno intenzione di tirare fuori, se non hanno intenzione di tirare fuori i soldi, sarà veramente difficile, anche perché insomma ci sono poi delle questioni che magari i tifosi fanno fatica a capire, ma insomma noi addetti ai lavori le vediamo, insomma sono questioni abbastanza semplici. Se la partita Inter-Juventus viene risolta da un gol straordinario di Maicon, bisogna ricordare che nel Milan in quella posizione giocano a turno Abate, Zambrotta, sì, Antonini, sì, eccetera. Sì. Cioè c'è una differenza tra le forze in campo, tra la qualità dei giocatori, che è evidente. Ora magari non sarà evidente al Presidente del Consiglio, però è evidente a chi si occupa di pallone. Insomma. Sì, ma basta guardare il gol di Pazzini di oggi, no? Segnato in stacco di testa in anticipo su Oddo, che di mestiere non fa lo stopper. Esattamente, esattamente. Poi insomma, voglio dire, se gli elementi che dovevano completare la rosa del Milan erano all'inizio della stagione almeno 3-4, così aveva chiesto Leonardo, 3-4 sono anche adesso. Se Berlusconi non glieli compra, non è che si può dare la colpa a Galliani, a Leonardo, a Braida, eccetera. Cioè, se i soldi non ci sono, più di così non si può pretendere. Certo, Va però ricordato che il Milan non vince qualcosa dal dicembre del 2007, sì. Questo va ricordato. Sì, certamente, ma che è del tutto legittimo anche come politica e strategia societaria, l'importante è poi non dire siamo competitivi, colpa di Leonardo se non vinciamo lo scudetto e la Coppa dei Campioni. No, ma non c'è dubbio, anche perché insomma io ricordo, frequentando l'ambiente del Milan praticamente tutti i giorni, che l'obiettivo dato dalla società a Leonardo era quello di arrivare almeno nelle prime tre, e mi risulta che almeno nelle prime tre ci possa arrivare. Quindi credo che l'obiettivo sia stato centrato. Non vedo francamente un fallimento dell'obiettivo. Con l'organico che aveva a disposizione, secondo me ha fatto anche troppo. Assolutamente, lo diciamo tutte le volte che capita. Andrea, ti chiedo ancora questo, perché a 39 minuti dall'inizio del derby vale, chi vince lo scudetto? L'Inter. Secondo me l'Inter è più forte. Ma io dico la verità. Avrei molto piacere, ma qui non c'è nessuna ovviamente questione di tifo, ci mancherebbe sì. altro, io non tifo per nessuna squadra, perché appunto faccio il giornalista ed è giusto che i giornalisti siano assolutamente oggettivi, però avrei veramente piacere per una persona come Ranieri, che secondo me è stato maltrattato l'anno scorso quando era alla Juventus. È stato cacciato via due giornate dalla fine con una decisione davvero incomprensibile, perché a due giornate dalla fine non si esonera un allenatore. Ha aspettato, non è andato subito su una panchina. Alla Roma hanno esonerato Spalletti dopo la seconda giornata. Ha preso in mano una situazione che comunque non era una situazione rosea, e piano piano ha costruito quello che io ritengo comunque essere una grandissima impresa, perché se anche arrivasse seconda a un punto la Roma sarebbe veramente una grandissima impresa, considerato che ha giocato quasi tutta la stagione senza il suo giocatore più importante, cioè Totti. Certo. Andrea, grazie, buon lavoro. Grazie a te, Carlo. Grazie ad Andrea Schianchi. Vorrei tornare a parlare con gli ascoltatori, poi ovviamente avremo modo di seguire insieme la prima mezz'oretta del derby dell'Olimpico, ma naturalmente vi terremo aggiornati su questa su tutti gli sviluppi di questa partita. 800 24 00 24, però dicevo, voglio tornare a parlare con gli ascoltatori. Il primo, Antonio da Caserta. Sì, pronto. Pronto, ciao. Salve. Niente, praticamente ho sentito un po' anche quello che diceva il giornalista a proposito di Leonardo, ma Leonardo alla fine, cioè, giustificarsi, come hai detto anche tu, ogni volta, cioè giustificarsi, farsi comunque dire sempre le stesse cose con quella rosa a disposizione, anzi è fin troppo signore, credo, certo. Perché magari, cioè, a poche volte, cioè, anzi quasi mai ha tirato in ballo il fatto... È fin troppo intelligente, perché sa bene... Ma poi ha abbracciato il progetto, quindi sarebbe anche stupido magari... Sa perfettamente chi comanda, che gli ha dato anche molti soldi, gli ha dato anche molte responsabilità, è un uomo estremamente intelligente, quindi... Sì, ma gli hanno parlato chiaro, il progetto è quello e lui ha accettato la situazione. Sì. Ora invece praticamente penso che si è... No, che si è stufato, ci ha pensato e ha detto, vedendo magari che anche si è appassionato anche a questo tipo di lavoro, quando invece prima... Ma semplicemente ha un'altra chance, probabilmente, di alto livello, perché se ti dicono vai a allenare il Brasile, insomma, io... A prescindere dal Milan e dai suoi piani, magari un pensiero, a prescindere ce lo fai, eh? Quindi non so se andrà a allenare il Brasile, ma la voce è questa, quindi insomma, fatta questa stagione, pagate certe tasse, portato a termine in maniera dignitosissima il lavoro, anzi al di sopra delle previsioni, perché il Milan comunque, ripeto, con questa situazione di organico ha fatto il suo, forse anche di più, perché rimanere al di là dei numeri, quello che si diceva prima, rimanere agganciato al treno dello scudetto fino a 4 giornate dalla conclusione, secondo me è un miracolo. Io non ci avrei creduto, me l'avessero detto a settembre, e invece è rimasto lì fino in fondo, anche se non ha mai avuto in realtà la faccia di chi lo scudetto se lo può prendere. Questa è un'altra sensazione che ho. Antonio, ma rimaniamo a Caserta, oggi tutti casertani, fa un gran piacere. 800 24 00 24, il numero verde. C'è anche chi scrive su Mourinho. Ieri ha detto, riferendosi a me, che ho la sensazione che Mourinho l'anno prossimo vada via. Cosa la fa immaginare ciò? Dove pensa che vada? Chi potrebbe arrivare all'Inter? Crede che i risultati possano cambiare lo scenario? Domanda Giampaolo. Resta una sensazione, credo che in estate vedremo un mercato allenatori movimentato come forse mai, ma resta la sensazione che Mourinho vada via. L'ha già detto in una maniera o nell'altra diverse volte, no? Il calcio italiano mal mi sopporta, io mal sopporto il calcio italiano, insomma, l'ha detto, fatto capire, adesso è un po' che non parla, quindi non abbiamo più di questi argomenti del discutere o del contendere, però la sensazione è che vada via. C'è la panchina del Real Madrid che si libererà, vediamo chi si accasa al Real Madrid, perché io non ci credo che Pellegrini rimanga su quella panchina dopo aver perso la Champions League arrivando secondo in Liga, quindi c'è la panchina del Real Madrid, ce ne sono alcune importanti in Inghilterra che ballano. Vediamo cosa fa Benitez, magari Mourinho al Real Madrid, Benitez all'Inter invece che alla Juve, con alla Juve mettiamo Prandelli, ma sono tutte ipotesi, è tutto solo un gioco. Maurizio, buonasera. Dottor Genta, buonasera. Senti, io da tifoso del Milan penso che la società, la presidenza chiaramente, dovrebbe essere molto chiara. Cioè, noi tifosi siamo davvero stanchi, ci sentiamo umiliati da questo atteggiamento. Non c'è chiarezza, o per meglio dire, apparentemente non c'è chiarezza. Ma no, a me sembra, cioè, che ci sentiamo ostaggio di una decisione presa dal primo tifoso, come si definisce, del Milan, che tiene questa società gloriosa, che è fatta di tantissimi tifosi, in una condizione che non possiamo accettare. Cioè, però... Milan è patrimonio di tantissimi tifosi. Maurizio, però i soldi li mette lui, Sì, d'accordo, ma può vendere, dottor Genta, nessuno, non gliel'ha obbligato il medico di tenere il Milan, lo può cedere, a quelle condizioni, penso, dottor Genta, chiedo scusa, a quelle condizioni, con una società che deve autogestirsi, basta un manager capace che può gestirla a questo punto, non c'è bisogno del grande mecenate o del grande presidente, c'è una squadra che si autogestisce, siamo a livello di Catania, a livello di queste grandissime realtà del nostro calcio. Ho capito, cioè, però... Lei mi dice, da tifoso milanista non posso accettare questa situazione, però mi va bene essere come il Catania autogestito, c'è qualcosa che non va. I soldi nel Milan li ha sempre messi Berlusconi, anche negli ultimi anni, no? Se non li vuole più mettere, ne ha tutti i diritti. È chiaro che ci deve essere un po' più di ma chiarezza c'è, anche fin troppo, è nei fatti la chiarezza. Poi da qui a dire vende il Milan, ha sempre detto di no. Vende il Milan a chi? Quanti soldi servono? C'è qualcuno che ha questi soldi? Non credo che i tifosi Milan possano essere contenti di una autogestione a campare, questo non lo credo. Torniamo a parlarne, però, mentre mi segnalano qualche incidente, c'era da aspettarselo, speriamo non sia nulla di preoccupante, a Roma, allo stadio, nei pressi dello stadio, ma poi ci colleghiamo con l'Olimpico e proviamo a capirne di più. 20 minuti al derby, Inter 70, Roma 68, Milan 64, Sampdoria 57, quarta da sola. Questo ha detto fin qui la domenica del calcio appassionante, se ce n'è una. Alberto Cerruti, buonasera. Buonasera, buona domenica a tutti, aspettando il derby. Alberto, aspettando il derby, tu sei la firma di riferimento del calcio sul giornale che organizza il Giro d'Italia, no? Mi viene in mente che la Roma in questo momento ha il Mortirolo davanti con la maglia rosa sulle spalle, almeno virtualmente. Sei d'accordo? Sì, se supera il Mortirolo e là in alto è ancora prima, allora ci si comincia a pensare. Però c'è il Mortirolo. Sì, e soprattutto direi la Roma è una squadra che non è abituata ad avere la maglia rosa sulle spalle, e quindi questo è importantissimo, perché un conto è inseguire, sognare, e un conto avere la responsabilità di difendere una maglia rosa che pesa tantissimo contro maglie biancocelesti, che non sono quelle della Bianchi ma sono quelle della Lazio, per rimanere in tema ciclistico. Certo, e intanto Ranieri ha scelto una squadra da cronometro, una squadra che va forte, perché ha sciolto le riserve, gioca Luca Toni accanto a Totti e a Vucinic, vuole vincere, questo è evidente. Sì, soprattutto non vuole avere problemi, diciamo, con l'ambiente, perché sappiamo quanto sono forti le pressioni a Roma. Se giocasse senza Totti o senza uno di questi giocatori e non vincesse, verrebbe massacrato. A questo punto o la va o la spacca, e lui spera che vada. Lui spera che vada. Per rimanere in tema di paragoni... Non vadi, che vada. sì. Per rimanere in tema di paragoni, l'Inter, così come il Barcellona, così come il Bayern Monaco, peraltro, sono squadre in questo momento particolare della stagione impegnate nei playoff, io direi, o in un mondiale, se vuoi, una partita decisiva ogni tre giorni. Sono tutte nella stessa situazione. Come leggi chiaramente in ottica Inter, come leggi questo sprint tra l'Inter e il Barça, costretto a viaggiare in pullman? Ecco, direi che abbiamo parlato di Giro d'Italia per la Roma, qui dobbiamo parlare di Tour de France per il Barcellona, che proprio pochi minuti fa in autobus ha varcato la frontiera tra la Spagna e la Francia, si stanno dirigendo verso Cannes, dove dormiranno questa sera Messi e compagni. Questo, al di là del folklore e della curiosità, è un problema in più per il Barcellona, perché questi giocatori sono comunque uomini, viaggiano per 12 ore oggi, per altre 8-9 domani sera c'è l'allenamento, quindi questo sicuramente è un grande vantaggio per l'Inter. Si gioca sui nervi più che con le gambe, e a questo punto io comincio a pensare che l'Inter non sia così spacciata come tutti pensano. Un vulcano per amico? Molto amico, direi amico di Mourinho. Anche perché le ultime partite hanno dato coraggio all'Inter, che ha battuto la Juventus, mentre il Barcellona si è fermato senza nemmeno segnare un gol contro l'Espagnol. E aspettiamo il derby. Se la Roma non batte la Lazio, l'Inter avrà una carica in più. Sono d'accordissimo, l'Inter avrà anzi il vero match ball per questo titolo. Se stasera l'Inter è ancora davanti, secondo me non la supera più nessuno. Tu scrivevi ieri che l'Inter comunque, vista con la Juventus, ha benzina nelle gambe, io condivido. Sì, non soltanto contro la Juventus, ma in tutte le ultime partite, al di là dei risultati, quello che mi ha colpito favorevolmente dell'Inter è proprio il finale che ha sempre fatto, nelle due partite contro il CSKA, anche a Firenze dove ha pareggiato, anche in Coppa Italia. È una squadra che sta bene, e a questo punto della stagione è molto importante, mentre la Roma nell'ultima partita contro l'Atalanta ha finito proprio col fiatone, e questo può far pensare che la Roma abbia una preparazione diversa, che senta anche la fatica più dell'Inter adesso. Verissimo, ti chiedo ancora questo: il Milan senza Leonardo ormai è ufficioso, ma certo, no? Mi pare chiaro per tutti, il Milan senza Leonardo, il Milan del dopo Leonardo, il Milan del futuro, come lo immagini? Intanto io do per certo che Leonardo non rimanga sulla panchina del Milan, al suo posto ci sarà Tassotti, penso da solo, sarà un Milan giovane che inserirà alcuni ragazzi della primavera, un Milan tecnicamente indebolito, è un Milan che vuole autofinanziarsi come vuole Berlusconi, però vedo un futuro difficile, perché se il Milan è stato in corsa per lo scudetto fino a oggi o fino a settimana fa, non è stato per merito suo ma per demerito dell'Inter, che viaggia 7 punti sotto il rendimento dell'anno scorso pur avendo una squadra più forte. Quindi il Milan è virtualmente a 10-12 punti di distacco dall'Inter, e questi punti non si possono recuperare la prossima stagione. L'allenatore conta poco a questi livelli. Grazie Alberto, buon derby. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Cerruti. Ci fermiamo per il traffico subito dopo. Paolo da Como, Edoardo, provincia di Roma, 80024, 0024 è il numero verde. Strade in diretta. In apertura sempre il traffico aereo. Sono chiusi gli aeroporti del nord Italia fino alle 8 di domani mattina dopo l'eruzione del vulcano islandese. Ci sono ripercussioni su tutti gli altri scali italiani, centinaia i voli cancellati, disagi di conseguenza nel trasporto ferroviario con le principali stazioni prese d'assalto, ma Trenitalia raccomanda ai viaggiatori di recarsi in stazione solo se diretti verso le località nazionali. Tutti i treni diretti all'estero sono prenotati fino al 23 aprile. Trenitalia ha predisposto però un treno speciale questa sera tra le 23:30 e mezzanotte con partenza dalla stazione di Milano Centrale per Parigi. Intanto hanno riaperto tutti gli aeroporti della Spagna e della Francia meridionale. 6 aeroporti tedeschi sono stati autorizzati a riaprire temporaneamente, riaperti anche 6 scali in Polonia. Da domani alle ore 6 potrà riprendere l'attività anche negli aeroporti austriaci. La situazione sulle strade: ci sono code di 3 km per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Lavoria verso Firenze. Traffico intenso poi sulla rete. Oltre ai rientri del fine settimana ci sono molti veicoli in viaggio attorno al nodo di Bologna sulla A14 per il Cosmoprof in fiera. Infine prudenza per i banchi di nebbia sui tratti appenninici abruzzesi della A24 e della A25 Roma-Pescara. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Tempo di sport. Dunque, ascoltatori, Paolo da Como, buonasera. Buonasera, la prima volta che riesco a parlare, niente, volevo purtroppo ritornare sul discorso del Milan, sì, perché penso bisogna fare chiarezza, magari per sia per i tifosi più giovani, sia per quelli come me che magari avevano la tessera ai tempi l'abbonamento ai tempi della Serie B, no? Sì. Quindi abbiamo visto diversi Milan, non è che abbiamo esultato solo per il Milan di Berlusconi, abbiamo certo anche sofferto. Avete esultato anche per quello di Atley e Wilkins, che certo non era da corsa prima dell'avvento di Berlusconi, no? Certo. Sapevi che eri competitivo fino a un certo punto. Comunque bisogna fare chiarezza, perché allora è chiaro che bisogna ringraziare quest'uomo per gli splendidi successi che ci sono arrivati, di quelle soddisfazioni che non so se altre squadre si leveranno, no? Però a questo punto qua, cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un monumento al presidente di ringraziamento, e poi cosa dobbiamo fare? Perché la politica di autogestirsi, a mio avviso, la puoi fare se ogni anno scopri un cacà o un pato della situazione e l'anno dopo lo rivendi a 50-60 sì milioni e metti dentro un altro giovane che hai preso per 4 soldi in America, sì, o in Brasile, sì, okay, allora puoi fare questo discorso. Altrimenti io sono d'accordo che è immorale, è ingiusto che tu vai a comprare giocatori e per fare una grande squadra li paghi 50-80 milioni, però se ti servono devi tirare fuori 25 milioni, 30 milioni per prendere il zecco della situazione, cioè o sei da Milan o altrimenti certo bisogna cedere la mano. In più bisogna, Paolo, però bisogna cambiare anche strategia di fare, bisogna cambiare anche il modo di fare il mercato, perché il Milan nelle ultime N stagioni, negli ultimi 10 anni è stato abituato a comprare giocatori magari senza tanto futuro ma pronti per vincere subito e molto costosi. Se adesso diciamo il Milan vuole autofinanziare, vuole puntare sui giovani, vuole fare un'altra politica, innanzitutto bisogna dirlo e non continuare ad insistere sul fatto che il Milan è competitivo ad ogni livello, perché non è vero. E poi bisogna anche cambiare completamente modo di fare mercato, magari anche con altri interpreti del mercato, o no? Sicuramente sono d'accordo, ma questo non è neanche facile, perché sono stati fatti oltretutto altri errori che ci devono spiegare al di là della disponibilità di Berlusconi, perché il Milan aveva crediti e parecchi con l'Atletico Madrid, e questo non lo scopro io, ci devono spiegare perché sono riusciti a non portare a casa Fernando Torres, per esempio, dopo andare a spendere una barca di milioni per prendere Oliveira. Cioè, questa qui è una spiegazione che il signor Galliani ce la deve dare, perché noi capiamo l'indisponibilità di Berlusconi, sì. Però non devi unire poi le barzellette di altri personaggi della società, sì. O tipo il fatto di, cioè, qui ci si rende conto che in difesa, allora su Nesta non si può più contare perché sempre no, beh, ma guardi, senza, adesso senza stare a fare poi tutti i nomi, in difesa oggi Oddo ha giocato difensore centrale, c'era Albertazzi in panchina e dovrebbe rientrare un giocatore di questo tipo nelle strategie del Milan che verrà, e invece il Milan ha beccato il gol con Pazzini, che fa un gol da grande attaccante, da attaccante vero, ma saltando in anticipo chiaro su Oddo, che invece il difensore centrale non ha mai fatto nella sua carriera, io credo, neanche nelle giovanili. Insomma, è chiaro che il Milan, per essere competitivo, avrebbe bisogno di cambiare moltissimo, servirebbero un sacco di soldi, non so quantificare quanti, ma so, al mercato attuale 150-200 milioni di euro, io credo, per rifare immediatamente una squadra competitiva ad ogni livello. È chiaro che la proprietà non li vuole spendere, mi sembra del tutto evidente questo. Io, prima di andare in provincia di Roma da Edoardo, vado a Roma all'Olimpico da Marco Montanari. Buonasera. Buonasera dallo Stadio Olimpico Roma, siamo in possesso delle formazioni ufficiali delle due squadre, però prima un dato di cronaca, perché questo derby era a rischio, inizialmente era stato programmato per le 20:45 e poi spostato alle ore 18, e in effetti i timori erano fondati, perché si stanno verificando dei problemi in tribuna Tevere, che è poi l'unico settore dove di fatto le due tifoserie sono a spostato. C'è un largo spazio vuoto, so che è stata vietata la vendita di una parte dei tagliandi per creare una zona cuscinetto. Le due tifoserie purtroppo si stanno anche in questo istante affrontando, vedo adesso la situazione sta tornando alla normalità, dovrò intervenire oltre agli steward anche le forze dell'ordine che ora stanno presidiando la zona. Quindi, insomma, questo era un dato di cronaca per rimanere proprio sulla stessa attualità. Invece, per quanto concerne le due formazioni, quindi per tornare al calcio giocato, la Roma che scenderà in campo con Giulio Sergio in porta, linea di destra con Cassetti, Juan e Gordista a formare la coppia centrale, Arisa a sinistra, centrocampo con De Rossi, Pizarro e Ferrotta, Vucinic e Totti a ridosso di Luca Toni. Quindi Ranieri gioca tutte le carte per cercare di vincere questo derby. La Lazio risponde con Sergio in porta, linea difensiva 3 con Diaz a sinistra, Sendard al centro, Radu a destra, linea mediana con Lichtsteiner, Brocchi, Ledesma, Kolarov, Floccari e Zarate in avanti, Floccari che discute Rossi in avanti, supportati da Mauri. Quindi Zarate in panchina, Toni in campo, queste le ultimissime di formazione nel derby della capitale. Io ringrazio per il momento Marco Montanari, con cui poi naturalmente torneremo a collegarci nel corso di questo programma che termina alle 19, quindi alla mezz'ora del derby di Roma, ma poi anche in serata, nei GR, nei vari speciali in programma per raccontarvi la giornata del calcio. Edoardo, provincia di Roma, buonasera. Buonasera, io telefonavo per fare due osservazioni. Primo, sento tutti i giornalisti, tutti i commentatori che parlano della classifica che adesso si è accorciata, tutte. Sì. Però non tengono in considerazione un fatto, che noi abbiamo avuto due partite che noi in cui abbiamo perso dei punti per due paperacce di un portiere che è il portiere numero uno, così diceva noi parlo con la Roma e parlo con la Fiorentina, qui sì. Sono quattro punti che abbiamo perso in due trasferte, sì. Per cui per questo ci troviamo in questa situazione, sì. Seconda considerazione, io non pretendo che gli arbitri abbiano tutti lo stesso merito da metro di giudizio, però lo stesso arbitro che arbitra una partita con due squadre e poi ne arbitra un'altra con altre due squadre, perlomeno la coerenza la deve tenere. Parlo di Tagliavento, sì. Che butta fuori il suo fallo con la partita con la Sampdoria, butta fuori Cordova per un fallo che non c'era, perché il secondo gli dà, sì, la seconda ammonizione, sì. Quando si va a vedere la partita, il derby di settimana scorsa tra Genova e Sampdoria, sì, c'era il centrale del Genova, che è un sudamericano, adesso non mi viene il nome, sì, che era ammonito. Dopo l'ammonizione ha fatto almeno 10 falli, e di cui almeno 5 importanti. Non gli ha dato il secondo cartellino. Io dico, allora mettetevi d'accordo, solo con certe squadre bisogna buttare fuori due giocatori, fare la roba, o con tutte? Lo stesso arbitro. Vale. Allora, se l'Inter non vince lo scudetto, la colpa è di Giulio Cesare, miglior portiere del mondo, che fa due papere di Tagliavento. Quindi questo mi sembra il senso del discorso. Lo trovo, lo troverei un discorso abbastanza comico, ma comunque, al di là di questo, grazie. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao Filippo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. La gita scolastica a Barcellona come procede? Ah, alla grande, eh? Alla grande. Vanno, sono a Montpellier. Sì. Stasera si dorme sulla Croisette. E poi domani, tranquilli, si arriva a Milano, allenamento a San Siro e niente, sono partiti. Incredibile. Vulcano che ti fa Inter, Vulcano che ti fa Inter, e questo sì, l'abbiamo capito. Clamorosamente. Conta che io stamattina sono salito su una, per la prima volta nella mia, sono salito su un aereo e poi mi hanno detto no, lei deve scendere, arrivederci e grazie. Può prendere il pullman del Barcellona. Sì, esatto, sì. Se vuole andare a Madrid, lei dice, cioè, pensi, trovi altri mezzi, perché qui noi chiudiamo. No, più tardi alle 7, dopo questo programma, faremo, come avete sentito, uno speciale sugli effetti prodotti dal vulcano. Consiglierei anche un collegamento, anzi lo farò poi ai colleghi, un collegamento con il pullman del Barça, perché è incredibile, la squadra dei marziani arriva a Milano non con l'astronave, ma col torpedone come una gita scolastica. Ci si ferma a Montpellier. Sono due autobus, sono partiti due autobus. Ci si ferma... Con la squadra, l'altro con i dirigenti, e niente, fanno 630 km oggi, 350 domani, e passa la paura. Poi mi sembra scritto anche non in treno, perché c'è anche lo sciopero dei ferrovieri in Francia. Esatto, che mi veniva sempre in mente, no, la trasmissione di Arbore, dove c'era il cinese sciopero, diceva, no? In Italia. Adesso lo sciopero in Francia e niente, quindi non possono neanche prendere il treno, per cui sono sul torpedone, però è un torpedone ovviamente di super lusso, sì, quindi certo, stanno abbastanza larghi e comodi, anche il gambone di Ibra è abbastanza riposato, e insomma, Piqué non è che tocca, diciamo, il tettuccio, certo, perché il pullman è basso, sì, però è comunque una trasferta abbastanza surreale che arriva dopo una partita decisamente complicata. Spero ce l'abbiano ieri, il ghiaccio su quel pullman, perché ieri se le sono date non poco, sì, nel derby, sì. Sì, sì, le hanno prese loro parecchie, poi hanno pareggiato, non hanno segnato dopo qualcosa come 34 partite. Adesso il Real Madrid, che tra un po' mi andrò a vedere, gioca alle 9 e teoricamente può riportarsi a meno 1, che poi sono meno 2 perché sappiamo che negli scontri diretti il Barcellona è in vantaggio, però insomma la Liga che più o meno si tiene viva, quantomeno, poi a parte vediamo se poi davvero il Real Madrid batte il Valencia, però... Intanto gli occhi appunto puntati su Milano, perché a me la cosa, tutti adesso parlano ovviamente di questo grande viaggio di andata, ma se poi dovessero anche ritornare col pullman, la cosa si comincia a farsi grigina, perché sabato devono rigiocare in campionato, poi mercoledì c'è di nuovo l'Inter, sì, e passare delle giornate intere sul pullman attraversando la Francia non è esattamente la preparazione ideale. No, non è la preparazione ideale. Come l'affronteresti questo Barcellona tatticamente, Filippo? Diciamo che quello che ci ha insegnato il Chelsea l'anno scorso, e se vogliamo, sì, l'Espagnol l'altro ieri sera, con grandissimo pressing e diciamo il togliere la luce a Xavi e quindi a Messi, insomma questi sono i loro due uomini chiave. Dani Alves ultimamente la luce se la toglie un po' da solo, ieri si è anche fatto espellere, è l'altra grande, diciamo, fonte di energia di questo Barcellona. Se si riescono a controllare questi tre uomini, che non è poco ovviamente, ci vuole intensità, aggressività, grande corsa, grande solidarietà in campo, e queste sono le armi che possono spegnere il Barcellona. Non è una squadra imbattibile. Il Barcellona si diverte molto e gioca e dà il meglio quando gli lasciano fare quello che vuole, quando trova una squadra aperta, quando trova una squadra che gioca come gioca il Barcellona, allora lì è superiore. Se invece si impegnano altre qualità un pochino meno, sì, esteticamente valide, il Barcellona può essere fermato. Grazie Filippo. Grazie a voi, un abbraccio. Buon lavoro. Vi faccio sentire i rumori del derby, l'inizio del derby nella telecronaca di Sky. La 20ª gara stagionale e il record per Tagliavento, che ha la quarta gara consecutiva e il terzo derby dopo Catania-Palermo e Genoa-Sampdoria. Ma adesso le squadre a bordo campo, raccolte in campo per il minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della tragedia in Val Venosta, nei pressi di Merano. Quindi derby che inizia con questo minuto di raccoglimento, derby che inizia con facce molto tirate, come è normale che sia, da una parte e dall'altra, soprattutto sul fronte giallorosso, perché torno a ripetere la mia impressione: la Roma ha la maglia rosa virtuale in questo momento sulle spalle, ma ha davanti il mortirolo rappresentato da questa partita. Io continuo a pensare che se scenderà da questa montagna con davanti all'Inter, allora ci sono serie probabilità di vedere lo scudetto cambiare padrone, lo scudetto su quelle magliette giallorosse che indossano Toni, Totti, compagnia in questo derby. Altrimenti, se la Roma scollinerà dietro all'Inter tra un'ora e mezza, tra un'ora e tre quarti, credo che lo scudetto non cambierà padrone. Non so se siete d'accordo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto dopo questa pausa per vivere insieme questa mezz'oretta iniziale del derby. Regalato, acquistato, amato, detestato, sottolineato, fatto a pezzi, conservato. Qual è stato il primo libro della tua vita che ha saputo darti un'emozione? Radio 24 e il Salone del Libro di Torino ti invitano a raccontare la tua storia inviando una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it o visitando il sito radio24.it. Ogni sabato alle 21 Radio 24 premierà la mail più bella con due ingressi per il Salone del Libro di Torino. Tema di questa edizione: la memoria svelata. Perché in ogni libro c'è sempre qualcosa da ricordare. E questo è il nostro impianto di illuminazione. Utilità festeggia 10 anni al servizio delle imprese per la fornitura di elettricità e gas. Chiedi un preventivo gratuito su utilita.com. Insieme troveremo la soluzione ideale per la tua azienda. La sua voce ti manda in estasi. La sua grinta ti fa perdere la testa. Se la tua passione per l'auto è sfrenata, leggi Automobilismo. Automobilismo. Le automobili messe a nudo. Ogni mese in edicola. Stop! Stop ai rumori che arrivano in casa da sopra, da sotto, da stanze vicine. Sentite invece che silenzio. È il silenzio di una casa protetta da isolanti acustici Index. Fonostop per pavimenti, Top Sealant per pareti, innovativi e conformi alla legge per l'isolamento acustico dei fabbricati, esclusivi di Index, azienda di prodotti e sistemi per l'edilizia, esporta in oltre 100 paesi nel mondo. Indexspa.it. Siamo in diretta dai mercati finanziari di tutta Italia, dove sono in arrivo migliaia di risparmiatori a cavallo di poderosi elefanti. Scusi, perché proprio l'elefante? Perché è più facile sentirsi sicuri quando puoi contare su un'esperienza così grande. Ma quanto grande? Grande come quella di UbiPramerica, la continuità nei risultati, un partner con oltre 130 anni di storia. Faccia posto che salgo anch'io. Con UbiPramerica andiamo al Salone della Gestione del Risparmio a Milano dal 21 al 23 aprile. Avvertenze: prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. www.ubipramerica.it. Pronto? Penelope, sono Ulisse. Le sirene mi chiamano, ma io resisto. Ma vai invece, se ti chiamano sarà importante. Basta aspettare. È ora di cambiare. Il gruppo Piaggio moltiplica gli eco-incentivi statali. Se rottami un due ruote Euro 0 Euro 1 sugli scooter targati Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia e Scarabeo, hai vantaggi fino a 2.500 euro. I concessionari Piaggio e Aprilia ti aspettano. Info su piaggio.com. Fino a esaurimento fondi. Verifica con il tuo concessionario. A Roma, al Palazzo delle Esposizioni, La natura secondo De Chirico, a cura di Achille Bonito Oliva. Una grande mostra per immergersi nelle atmosfere enigmatiche delle opere del maestro del Novecento, fondatore della metafisica, dal 9 aprile all'11 luglio. www.palazzoesposizioni.it. Sono l'antropologo Erminio Valladori, in uscita con i miei allievi per studiare dal vivo la tribù Linear. Professore? Top, il primo della classe. Ho osservato che nella tribù Linear c'è un culto particolare, quello del rispetto. Infatti? Rispetto della trasparenza, dei tempi di liquidazione. Certo, e... delle opinioni dell'assicurato. Appunto. E rispetto del suo denaro. Con Linear si può risparmiare fino al 40% sull'RC auto. Ma se dici tutto tu, io che ci sto a fare? Dica il numero verde. Ah già, 800-11-2233. Fonte libretto rosso 4 ruote 2009. tempo di sport. Intacco Totti. Pallone difeso male da Vucinic. La sensazione è che Vucinic giochi vicino a Toni. Totti trequartista come accadeva qualche anno fa. Sì, è un... Questa è la telecronaca di Sky, siamo in diretta naturalmente, quarto minuto di gioco 0-0 tra Lazio e Roma, primo tiro verso la porta altissimo, lo ha fatto Francesco Totti, lo ha effettuato Francesco Totti, un tiro senza nessuna pretesa in questo momento. Questo momento Toni colpisce duro Stendardo, se non ho visto male, al volto e gli provoca un taglio nei pressi del naso, intervento di testa di Stendardo basso, Toni entra con la gamba e c'è un taglio. Penso che servirà una sostituzione, potrebbe servire subito una sostituzione dopo 4 minuti di questo derby. Scarpata in faccia su Stendardo che aveva abbassato molto la testa nel tentativo di colpire questo pallone al limite dell'area. Intanto l'UEFA allerta arbitri di riserva per Inter Barcellona, perché insomma, per la solita storia del vulcano. Mi leggo l'agenzia Nube di Cenere, eccetera, eccetera, che sovrasta i cieli dell'Europa, non ferma la Champions League. L'UEFA però ha confermato che giocheranno regolarmente le due semifinali. Per la sfida tra nerazzurri e catalani di martedì sera è stata allertata una quaterna arbitrale pronta a subentrare qualora quella designata non riesca a raggiungere Milano. Dunque allerta arbitri, già sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, che l'arbitro che ha fischiato ieri il derby di Manchester aveva in programma un sabato libero, Atkinson, non doveva essere lui a dirigere la partita, è stato chiamato in fretta e furia perché quello designato, Barrett, era rimasto bloccato in Romania e non poteva volare a Manchester per dirigere questo derby che ha cambiato, purtroppo dico, tifando per i Chelsea di Ancelotti, le carte della Champions della Premier League, con il Chelsea poi sconfitto nell'altro derby, quello di Londra, con il Tottenham. Dunque sostituzione per la Lazio, Stendardo viene portato fuori in barella, sanguinava copiosamente, è stato ferito alla fronte dalla scarpata di Luca Toni, involontaria naturalmente, lascia il campo in questo momento salutando la curva dei tifosi laziali. Torno a parlare con gli ascoltatori, Fabiano Vicenza, Fabio Alessandria, Mimmo da Varese. Fabiano, buonasera. Buonasera a lei, grazie per lo spazio concesso. Grazie a lei, entra Biava al posto di Stendardo, dica. Sono un tifoso juventino, ma mi reputo uno sportivo. Sì. quello che non capisco è, adesso il tifoso milanista in generale dice ma il presidente, questa nuova gestione futura, autogestione... Però forse in generale ci dimentichiamo tutti che prima della presidenza del signor Berlusconi il Milan, come altre squadre, insomma, ma anche il Milan ha avuto degli spazi buissimi, no? E alla ricerca del presidente, e non andava bene uno, e non è riuscito il secondo, e non è riuscito il terzo. Sì, insomma, la retrocessione per le scommesse, poi la retrocessione sul campo, esatto. Poi citavo prima Wilkins e Atley in anni ormai lontani che hanno preceduto immediatamente l'arrivo di Berlusconi. Insomma, è chiaro che il Milan ha vissuto molte stagioni buie prima di cominciare a vincere, poi è anche vero che lo ha fatto per molti, molti anni, no? No, pertanto, no, quello che fino a qui, quindi, insomma, il tifoso, credo in generale, non può pretendere che io per primo, anche se non sono tifoso del Milan, ma voglio dire, non si può pretendere, beh, adesso togliti, fatti da parte, che ne troviamo un altro, anche perché un altro o è un vero tifoso, e allora, insomma, forse non riesco a spiegarmi, ma... Può essere anche un uomo d'affari, può essere anche un uomo d'affari, perché non credo che gli sceicchi siano tifosi viscerali del Manchester City, semplicemente è un business, è un affare, no? Il calcio all'estero, il calcio in Italia secondo me un po' meno, però non è detto che chi arriva e butta i quattrini in un'impresa di questo tipo debba per forza essere uno che ha passato l'infanzia nella curva sud. Invece magari il presidente attuale fa un paio d'anni in stand-by anche per rimettere a posto la società, ma siccome è il primo tifoso, poi quando gli ricapita il momento, poi la rimette la squadra. Sì, la mia domanda però, Fabiano, mi perdoni, è un'altra. Ma Berlusconi, imprenditore, presidente del Consiglio, presidente di questo e di quell'altro, Berlusconi può permettersi un Milan che... lotta per andare in Europa League dal punto di vista dell'immagine, oppure Berlusconi ha interesse ad avere un Milan che si autofinanzia, che combatte a centro classifica con il Catania, il Parma e l'Atalanta? Anche questo è vero, ma per un paio d'anni magari, e poi non è detto, perché abbiamo visto il Real che fa grandissimi investimenti però poi esce dalla Coppa dei Campioni, per cui quello che non capisco veramente, poi lascio la linea, sì, però che mi piacerebbe capire, non credo che improvvisino, no? Cioè, se il signor Leonardo, che è uno dell'entourage milanista da un po', non da stamattina, insomma, no? Se nel programma ancora dell'anno scorso, quando doveva entrare a fare quello che ha fatto, vuol che queste cose non fossero state già chiare un anno fa, una stagione fa? Cioè, come mai questo lo deve dire Leonardo. Questo lo deve dire Leonardo. Può anche essere che abbia avuto offerte che gli interessano, non ho dubbi su questo. Che si sia stufato da uomo di grande classe e di intelligenza di essere lì ad essere. Andrea Schianchi prima ha detto insultato. Non so se è la parola giusta, l'espressione giusta, però di essere accusato in alcune circostanze di non far giocare bene la squadra, di non raggiungere risultati prefissati, come se il risultato prefissato per questa squadra realisticamente potesse essere la vittoria dello scudetto della Champions League, perché non è così. Magari si è stufato di tutta questa situazione, ha detto: sapete cosa vi dico? Io vado a allenare il Brasile, cercate avere un altro con questi piani, con questo organico e con il mercato che verrà. Insomma, Fabio, Alessandria, buonasera. Buonasera, no, io volevo un po' andare controcorrente sulla questione del Milan, perché mi sembra che l'abbiate liquidata con troppa certezza. Io ho seguito tutte le partite del Milan a San Siro come abbonato e credo che invece Leonardo abbia dimostrato una certa insicurezza e anche in alcuni momenti ha proprio mancato di caricare la squadra per dare quel colpo che si poteva fare, perché era il momento giusto per farlo. Cioè, io ho avvertito invece delle pecche in Leonardo. Sì. Il Milan, secondo me, è una squadra che ha dovuto subire sicuramente il problema della panchina corta, però ci sarebbe un attimo da chiedersi qualcosa. Cioè, se noi prendiamo come metro di paragone l'Inter, non crediamo che l'Inter sia una squadra che sia al di fuori di ogni paragone? Cioè, la quantità di campioni che ha comprato l'Inter, arrivando al punto di cannibalizzarli, perché anche, ricordiamo, distrutto Suazo campione, parliamone, però sul fatto che l'Inter si aveva messo molti anni e aveva speso molti quattrini per cominciare a vincere non ci sono discussioni. Se però lei mi vuole paragonare la rosa attuale dell'Inter a quella del Milan, io non capisco. Voglio invece fare un discorso, ma non un discorso morale, perché quello poi è un altro discorso. Sì. Cioè, l'Inter effettivamente ha profuso una quantità di energie economiche. Di soldi. Francamente, di soldi che è al di fuori di ogni... Cioè, non ci sarebbe partita, dovrebbe fare un campionato a parte. E lo stesso, sì, dovrebbe fare un campionato a parte, cosa che ha fatto nelle ultime stagioni, ancora in corso in Champions League. Anche Real Madrid e Barcellona, che vogliono vincere la Champions, hanno speso come l'Inter o molto più dell'Inter, soprattutto in riferimento al Real Madrid. Anche il Manchester United, che pure in Coppa non c'è più e che magari non vince neanche il titolo in casa, così come il Chelsea. Insomma, questa elite di squadre che hanno la Champions League come missione, fatalmente spendono un sacco di quattrini e sono sovradimensionate rispetto ai campionati di appartenenza. Questa è la realtà del calcio di oggi, quindi perché così è, si tratta di capire se in un futuro vicino il Milan farà parte di nuovo di questa, ancora come negli ultimi 20 anni, di questa elite oppure no, semplicemente questo. Poi è indubbio che per far parte di quella elite del calcio europeo e mondiale bisogna spendere un mare di soldi, questa non mi sembra la scoperta dell'acqua calda. No, 0-0 tra Lazio e Roma, 14° primo tempo. Vi ricordo l'infortunio a Stendardo sostituito da Biava, partita come era prevedibile non bella, di grande tensione. Per il momento si gioca a metà campo, la Lazio si è affacciata nella metà campo romanista un paio di volte ma non è successo nulla come occasioni da gol fin qui. 14° di gioco, traffico. Strade in diretta. In apertura sempre il traffico aereo. La cenere nera del vulcano islandese si sposta verso sud. Fino a domani mattina alle 8 aerei fermi nel nord Italia. Riaperti invece tutti gli aeroporti spagnoli e quelli della Francia del sud. Quelli del nord, compreso Parigi, riapriranno martedì mattina. L'Austria riaprirà il suo spazio aereo alle 6 di domani mattina. È caos intanto nel trasporto ferroviario con le principali stazioni italiane prese d'assalto, ma Trenitalia raccomanda ai viaggiatori di recarsi in stazione solo se diretti verso località nazionali. Tutti i treni diretti all'estero sono prenotati fino al 23 aprile. È stato predisposto però un treno speciale per Parigi questa sera tra le 23.30 e mezzanotte con partenza dalla stazione di Milano Centrale. Andiamo ora sulle autostrade, sono in corso i rientri del fine settimana e sulla A14 si rallenta anche per un cantiere tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Liguria per altri lavori sulla A10 rallentamenti tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Rallentamenti per lavori anche sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre nell'altra direzione segnaliamo nello stesso tratto un chilometro di coda, in questo caso per un incidente. È tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Di forza Vucinic, Piava vince il duello, subentra Brocchi, in verticale per Floccheri che parte in ritardo. Curtisso protegge l'uscita di Giulio Sergio. Quello che voi non sapete, questo che voi non sapete, è che la Lazio ha segnato non appena abbiamo dato la linea al traffico. Quindi al minuto 14 segna il capitano della Lazio, e cioè Rocchi, lancio da metà campo. Rocchi che parte in posizione regolare, brucia Giulio Sergio in uscita e poi esulta facendo segno con pollice e indice, ruotando pollice e indice. Non ce n'è verso la curva della Roma, ci stanno anche questi sfottò come il famoso pollice verso di Totti dopo il derby dell'andata. Fa parte del derby, di questo derby importantissimo. Lazio 1 Roma 0, sedicesimo. Dario Ricci, ciao. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Parliamo anche di basket, cominciamo a dire che partite ci sono. Eh sì, abbiamo, allora siamo intorno alla metà del secondo quarto per l'undicesima giornata. Intanto i risultati già acquisiti in giornata, l'anticipo delle 12, Milano e Spugna Cremona 81-78. Per le partite che si stanno disputando invece, Sigma Coatings Montegranaro, Montepaschi Siena 27-24, quindi Montegranaro momentaneamente avanti contro i campioni d'Italia. Scavolini Spar Pesaro, Angelico Biella 33-27, NGC Medical Cantù Carife Ferrara 18-22, Pepsi Caserta Aira Avellino nel derby campano 20-23. Questi parziali dalle 8:30 alle 9, naturalmente parliamo di basket e vi daremo il finale di questo derby. Stiamo rivedendo il gol di Rocchi. Siamo ora vediamo chi ha fatto il lancio, se non sbaglio Floccheri dalla metà campo. Rocchi che parte in posizione perfettamente regolare nel bruciando i centrali della Roma e porta in vantaggio dunque la Lazio. Si è corso anche in Formula 1 stamattina, come ben sapete. Vogliamo parlarne subito con Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Allora, McLaren, Jenson Button di nuovo leader del mondiale, Button davanti a Hamilton, la pioggia che evidentemente, previo accordo che ci deve essere per forza con Eccleston, no, deve esserci un accordo, deve esserci un dannato contratto da qualche parte. Pioggia che cade ancora su Gran Premio e la corsa diventa un putiferio. Ne avevamo parlato, ti ricordi, fin dalle prime gare. Dico, se Eccleston ha fatto un contratto con Giove Pluvio siamo sistemati. Beh, però ti dirò, è stata una corsa divertente e caotica, secondo me. Caotica perché gli stessi responsabili dei box non sanno nemmeno quante volte si sono fermate le loro macchine. E diciamo che nonostante questa confusione, nonostante diciamo l'errore per esempio di Alonso in partenza, che ha una spiegazione comunque, ricordiamoci Alonso quando ha detto: le corse ormai si vincono con la qualifica e al via, nemmeno la prima curva, al via. Se tu psicologicamente pensi a questo, è chiaro che cerchi, se vuoi, di rubare la partenza. E invece in questo caso era proprio il momento in cui conveniva comunque fare una corsa regolare, come ha fatto Button. Perché, sì. Se pensiamo oggi la squadra che, almeno in condizioni di confusione come quelle di oggi, si può dire che è più a posto, è proprio la McLaren, che ha un regolarista dalla guida Gentile che è Button e che ha un aggressivo come Hamilton, e quindi copre praticamente in ogni modo la possibilità di essere nel gruppo di testa. Viceversa, alla Ferrari si è denunciato una volta di più questo problema. Alonso ha, secondo me, ha fatto uno sgarbo stupido con Massa quando superando l'ha passato, entrando ai box, e si ripete un po' quello che, ti ricordi, era stato il problema che c'era tra Hamilton e Alonso. Lì erano due galletti, qui Massa non è un galletto, però non può subire oltre una certa misura. Quindi mi pare che dopo questa gara, pur tenendo conto che la Ferrari ritiene in condizioni di passo gara con una sola sosta di essere ancora la vettura più veloce, e quindi qui con tante soste evidentemente qualcosa non ha funzionato, rimane il fatto che la Ferrari deve decidersi a innanzitutto inquadrare Alonso perché non faccia numeri inutili, ma soprattutto decidere anche di dire a Massa: guarda, noi gestiamo la cosa in un certo modo, e se Alonso ha la possibilità di andare davanti, tu puoi devi fare gioco di squadra, tu devi fare gioco di squadra e devi stare agli ordini di scuderia. Mario, Alonso ha anche detto: l'unico gran premio normale che c'è stato fin qui in questa stagione, l'unico gran premio asciutto, l'unico gran premio in condizioni regolari l'ho vinto. Sì, è vero, coincide con quello che ti dicevo: in condizioni regolari, con una sola sotto i box, e la Ferrari passo gara si ritiene ancora la vettura superiore. Però se vediamo quello che è successo oggi, io ritengo che la McLaren abbia un'accoppiata fortissima con una macchina che va molto bene, perché non dimentichiamoci che subito dopo i due c'è un altro motore Mercedes, quella macchina Mercedes di Rosberg. Quindi la prima Ferrari è quarta, e poi dopo dobbiamo andare giù fino al nono posto per trovare Massa, che oggi mi è sembrato molto poco competitivo, al di là dei problemi delle gomme eccetera. Mi sembrava disorientato, non era il protagonista che è quando va via velocissimo, e magari può anche sbagliare, ma però ti accorgi del pilota veloce, che oggi io francamente non l'ho visto. Però in tutto questo contesto pensiamo anche che il nuovo punteggio del campionato, tipo MotoGP, diciamo 25 punti, 7 in meno al secondo e così via, mi pare che ha movimentato un po' la gara. Sì, tant'è vero che avevamo Ferrari e Massa in testa, e adesso con i risultati sono stati, il punteggio è diventato sostanzialmente diverso, ma sono tutti nel pacchetto. McLaren ha 109 punti, la Ferrari ne ha 90, prima era davanti, ma Massa ne aveva 37, adesso Button ne ha 60, Rosberg ne ha 50, Alonso e Hamilton ne hanno 49, poi c'è Vettel e poi c'è Massa. Quindi è un campionato sicuramente interessante, sicuramente aperto. Rimane la considerazione che abbiamo sempre fatto: ma come mai quando c'è la pioggia la battaglia è maggiore? Torniamo al discorso del contratto che deve esistere tra Eccleston e Giove Pluvio. Schumacher invece affonda, pioggia o non pioggia. Infatti, perché non è stato penalizzato Hamilton, che ha zigzagato tre volte davanti a Petrov. Rivedendo le immagini oggi si notava che comunque Petrov seguiva Hamilton. Allora i casi sono due: o Petrov è matto e sta dietro uno che gli turba la scia, oppure vuol dire che, nonostante tutto quel che si dice, la turbolenza non è tale da consentire di stare abbastanza vicino e affiancarlo per poi passarlo. Quindi anche su questa aerodinamica ci sarebbe da parlare per un sacco di tempo, però la sostanza è che adesso, per fortuna, c'è una pausa piuttosto lunga, si viene in Europa, si aggiornano le vetture. Con la Spagna si riapre il campionato. Si è sempre detto che la quarta gara, la prima europea, è un po' quella che dà il senso al campionato, si può capire come vanno le cose. Ecco che vedremo cosa succederà. Certo, la prova di oggi di Schumacher purtroppo è deprimente. È piuttosto triste. Proprio da fare. Questa qua è una vettura molto sottosterzante. Lui che ama guidare quelle vetture che, come dai lo sterzatino, va via a sedere, è evidente che qui si trova male, perché gli va via il muso. Non è per le sue caratteristiche, non è semplicemente che è invecchiato il vecchio Schumi. Grazie Mario. Ciao. ciao. Alla prossima, grazie a Mario Poltronieri. Intanto chissà poi quando torneranno dalla Cina a causa nube, perché il problema è quello. Poi ricordiamo, Carlo, fermi che anche tutti. Il MotoGP, il Moto Mondiale è fermato. Il prossimo fine settimana non ci sarà il Motegi, rinviato al 3 ottobre. Vedi che ho ragione nel dire che il Vulcano ti fa Inter e interisti, perché Valentino Rossi così avrà una settimana, avrà tempo aggiuntivo per mettere a posto quella spalla che si è infortunato facendo motocross. 24esimo, attenzione a Lazio in avanti, Floccheri che prova a girarsi al centro area ma viene fermato dalla difesa della Roma, un tiro dalla distanza, Rocchi che intercetta, è una buona occasione questa per Rocchi che cade a terra, c'è un reclamo di rigore ma non viene concesso naturalmente, tagliamento, Rocchi dice no ma io non chiedevo niente, sono semplicemente caduto, mi hanno anticipato. Calcio d'angolo per la Lazio, sempre 1-0, decide per ora il gol di Rocchi al 13esimo, però mi sembra una Roma un po' scioccata dopo il vantaggio segnato dal capitano, questo intervento di Burdisso chiaramente sul pallone, quindi non c'è ragione per proteste, cosa che Rocchi peraltro non fa. 25esimo di gioco, sono finite i primi tempi nel basket, non ancora Carlo, anzi uno sì, a Cantù, Ferrara in vantaggio di 4 punti 29-25 sulla NGC Medical, gli altri parziali Montegranaro Siena 35-40, Pesaro Angelico Biella 41-27, allungano i padroni di casa, il derby campano, Caserta avanti su Avellino 35-33 a 2 minuti dalla pausa. Invece sul derby di Roma vi aggiorniamo nel corso dei GR, magari anche dello speciale sui problemi dei cieli che sì. Sta per iniziare dopo Giornale Radio, vi ricordo con Simone Spezia questo speciale sul vulcano ed effetti prodotti, compreso il viaggio del Barcellona in torpedone. Grazie, ci sentiamo dalle 8:30 alle 9 per il basket.